Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento e intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. A volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Mi capita ogni tanto di vedere musicisti che viaggiano in treno. Chissà perché, quando vedo una donna con una custodia che potrebbe contenere uno strumento musicale, non riesco a non pensare a una scena proprio ambientata in un treno del film A qualcuno piace caldo, dove Tony Curtis e Jack Lemmon si sono vestiti da donne e uno suonava il contrabbasso e l'altro il sax, ma la suonatrice che ho davanti è senza ombra di dubbio una ragazza, e guarda e sorride e tiene stretta tra le mani il suo strumento con fare forse un po' ambiguo. Io la guardo e comincio a parlarci. Cioè, io ti sto guardando con attenzione e vedo questa custodia inquietante che è tra le mani, che c'è dentro. No, non è un'arma, mi chiedono tutti se è un'arma, è un sassofono tenore in realtà. Niente, sto viaggiando da una città all'altra per andare a fare un concerto. Nessuno si spiega che una donna abbia un sassofono. Ma in effetti, guarda, è una cosa che nonostante ormai dovrebbe essere acquisita, desta ancora stupore. Poi ci sono le solite domande: ma ci vuole tanto fiato per suonarlo, ma chissà che fatica, ma è uno strumento maschile. In realtà, voglio dire, sono i soliti luoghi comuni alla fine. Ma poi c'è tanta iconografia di donne che suonano il sax. Sì, anche abbastanza licenziosa e maliziosa, però... Ah, cercano sempre il doppio senso, la donna che suona il sax. Ma viaggi molto te, vai anche all'estero in treno? Ma sì, in Svizzera sicuramente, da Milano è molto comodo, per cui capita diverse volte l'anno di andare al di là del confine. E viaggi sempre sola? Sì, dipende, generalmente sì. Qualche viaggio che ti ha lasciato ricordi particolari? Ma guarda, viaggio non in treno, un viaggio vacanza che ho fatto da sola. Sono andata in Turchia, in Istanbul. Adesso è molto trendy andare in Turchia. Sì, è molto trendy. A me è successo una quindicina d'anni fa e appunto andai così come nella migliore tradizione turistica a visitare questo bagno turco molto così segnalato nelle guide eccetera, e niente, in maniera forse un po' ingenua andai a farmi questo meraviglioso trattamento, savonage eccetera, e trovai... Ma dov'era il bagno turco? Dov'era? Era in Istanbul, all'interno di un villaggio, comunque di un residence, era un posto protetto. Sì, non era una situazione equivoca o promiscua o in quartieri pericolosi. Perché sui bagni turchi girano leggende di solito. Ma devo dire che sono confermate anche in situazioni controllate, nel senso che così, una volta entrata trovai solo inservienti maschili, già la cosa mi... uomini, ecco, la cosa mi sembrò strana, anche perché mi avevano dato l'appuntamento quando al di fuori dell'orario normale del funzionamento del bagno turco. Eri l'unica cliente, diciamo. Ero l'unica cliente, esatto, e in effetti il trattamento che avevano riservato per me era ben più che rilassante, mettiamola così. Nel senso che cominciarono con i massaggi e poi erano due inservienti. Ma faccia parte del pacchetto, diciamo, massaggio 2. da quello che mi sembra di aver capito, sembra di sì, sembra che fosse comunque una sorta di trattamento particolare che riservavano alle turiste che andavano lì. Per cui io... T'hanno insaponata? Sì, volevano insaponarmi, ecco, io ho cortesemente declinato l'invito, però me la sono vista brutta, ecco, anche perché non hanno reagito in maniera molto serena a questo mio diniego. Ma erano vestiti da turcomanni, come erano vestiti? Erano vestiti con un paio di pantaloni a torso nudo, perché naturalmente nel bagno turco c'è molto caldo. Vabbè, non era una cosa indecente, mi pare. No, beh, però ecco, il pantalone, diciamo che dopo da un certo punto in poi è scivolato via, per cui... Ah, erano tutti nudi? Sì, sì, sono stati piuttosto espliciti nell'offerta, ecco, ed erano piuttosto straniti nel fatto che comunque io la rifiutavo, forse era una sorta di invito implicito l'accettare di farsi massaggiare al di fuori dall'orario di apertura a utilizzare tutti i servizi del... Compresi gli accessori organici che non erano previsti. Che non erano previsti, esatto. Ma quindi quello che ti fa pensare, ci fosse, diciamo, una prassi in quel villaggio che le signore andavano lì fuori orario a fare il massaggio con l'abbattimento multiplo? Ma guarda, io credo proprio di sì a questo punto, anche perché poi l'ho riferito al referente del villaggio e lui non ha fatto una piega, ha detto ma lo segnaleremo alla direzione, però sembra che fosse quasi un po' un servizio in più che veniva offerto alle clienti del centro. E quindi ecco. Sei inserita in una piega nascosta del turismo sessuale femminile, che è quello che probabilmente di cui si parla meno. Sì, esatto, io credo proprio di sì, in maniera non voluta per quanto mi riguarda, però forse era un po' la fortuna di quel giro di turismo di donne singole. Ma ti sei guardata intorno, poi hai visto che altri clienti c'erano in quel villaggio? Ma guarda, in effetti ho notato un'altra cosa strana, perché in quella settimana sono stata avvicinata da un'altra coppia di una certa età, straniera, e anche questi mi avevano proposto di unirmi a loro per il dopo cena. Per qualche situazione non meglio precisata, però ho capito che forse a mia insaputa ero capitata in un luogo... Cioè, diciamo, non era il posto che avevi scelto per le tue vacanze. Che avevo scelto per le mie vacanze serene, ecco. Però devo dire che l'offerta era piuttosto variegata ed interessante per chi cercava quel tipo di attrazioni, ecco. Va bene, grazie Rosa, buon viaggio. Grazie, buon viaggio anche a te Gianluca, ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ogni volta che dal finestrino vedo il campanile di una chiesa, immagino che in quella chiesa ci sarà un altare o più altari. E sotto ogni altare probabilmente ci sarà la mummia di un santo. Vivo in una città che è piena di mummie di santi, di corpi che sono stati attraversati dalla grazia e ne sono rimasti incontaminati. La gente va davanti alle mummie dei santi, la gente prega, la gente chiede grazie. Ma in realtà in un passato del nostro paese, in un passato laico, in un passato che nulla aveva a fare con la santità, improvvisamente alcuni personaggi eccezionali hanno avuto lo stesso privilegio, che il loro corpo, dopo la morte, è stato trasformato in reliquie, nelle reliquie laiche dei nostri martiri del Risorgimento. Una volta mi è capitato di vederle, di elencarle, di classificarle. È stata un'esperienza fantastica. 120 anni prima nessuno immaginava come giovani scavezzacollo coloro che fecero l'Italia. Degli eroi del Risorgimento coltiviamo spesso pregiudizi scolastici e pensiamo a loro come materiale da museo o monumenti ai giardinetti. Trovandomi però a maneggiare concretamente sangue e ossa dei giovani martiri risorgimentali, dovevo scrivere per una mostra al Vittoriano dedicata alle reliquie laiche dei giovani che fecero l'Italia, me li sono visti davanti come probabilmente li allucinarono i loro contemporanei. Erano anche ragazzi dalla testa calda, capaci di scegliere la lotta armata per un'idea al tempo così bislacca come quella dell'Italia unita. Erano talmente fuori di testa e sprizzanti virtù eroiche che appena morti furono quasi santificati. Per capirlo basta prendere tra le dita quell'osso buco annerito della vertebra spolpata di un martire di Belfiore. È una geografia simile a quella dei tanti testimoni della fede cristiana. Se nel culto popolare dei santi martiri si venerano teste mozzate, pelli scuoiate, occhi divelti, seni strappati, anche il martire di Belfiore, con il collo spezzato dal cappio del boia, merita che la sua vertebra sia proclamata reliquia sacra. La folle creatività del martirologio risorgimentale va ancora oltre. Anche un pezzo di legno indurito del tempo diventa il frammento del mandorlo sotto al quale morì Enrico Cairoli con tanto di autentica. La ricerca del miracolo che attestasse la virtù eroica di un apostolo risorgimentale colse persino i seguaci di Giuseppe Mazzini. Quando questi morì, decisero che dovesse rimanere incorrotto proprio come un santo. Chiamarono da Lodi uno scienziato della pietrificazione di cadaveri, il professor Paolo Gorini. Quando l'imbalsamatore arrivò a Pisa, però, era tardi. Erano passati 2 giorni e il morto si stava frollando. Gorini tentò il recupero stendendolo su un coperchio della bara che ancora oggi vediamo forato per tale operazione e gli andò male. Quando Mazzini fu esposto, pare emanasse tutt'altro che odore di santità. Persino Garibaldi, ancora vivo, non fu esente dalla tentazione di essere reliquia. Realizzò un calco della mano e lo consegnò al fotografo Alessandro Pavia. Questi ne ricavò una singolare icona taumaturgica, fu stampata e distribuita. Si diceva fosse portentosamente capace di guarire per contatto. Mi sto rendendo conto che il mio viaggio di oggi è tutto incentrato sull'ossessione del corpo. Il corpo da conservare, il corpo da mantenere, il corpo da glorificare. Mentre sono assorto in questi miei pensieri, vedo una donna dalla chioma fiammeggiante. È spavalda, si guarda intorno e cerca apprezzamenti. È probabilmente un'attrice o probabilmente una donna che ama essere guardata. E non posso fare a meno di attaccare il discorso. Ma sei di quelle che passano le giornate nei centri estetici? Ma guarda, io ti dirò, mi piace così andare in avanscoperta, no? Andare in giro e vedere un po' le novità che vengono proposte, perché mi piacerebbe sempre essere un pochino all'altezza della situazione. Però poi anche per curiosità, per una serie di cose, mi reco, sì. Ma promettono miracoli, cioè ho soltanto, diciamo, un lenitivo del malessere, vai lì perché, come dicono le signore, non c'hanno una mazza da fare. Mi piace farmi coccolare, per quello. Allora, fondamentalmente io ci sono capitato ultimamente perché mi hanno regalato un pacchetto, no? Ah, con le cose pacchetto. Groupon che sì, ci si regala bravo, a me. Bravo, una cosa su Groupon. Io sono finita 5 euro, no? 7 trattamenti. Sì, ma io non lo so, me l'hanno fatto come regalo, comunque ci sono capitata. E io te lo giuro, a costo di farmi vituperare la faccia, io ci voglio andare continuamente in questo posto. Cioè ci vorrò tornare almeno una volta ogni 2 mesi, perché mi rigenero. Cioè io non ho mai visto un grado di follia tutto insieme, sia da parte degli utenti che da parte di chi propone. Chi... Ma fammi un esempio per capire. Allora, in buona sostanza sono entrata, ho conosciuto questo, diciamo, personaggio che, no, si propone quasi come uno scienziato pazzo, cioè una sorta di guru. Sarebbe il tenutario del centro estetico. Esatto, si trova. Praticamente prima appunto mi ha iniziato, no, a fare i 2 trattamenti normali, poi ho iniziato a dirmi, ma perché non va in questa camera? Io ho una camera... No, i trattamenti cosa consistono? Perché non so nulla. I trattamenti, no, a me ha fatto una maschera, no? C'è una maschera rigenerante, no? Tutto abbastanza normale. Ecco, il primo impatto era abbastanza, diciamo, normale. I personaggi che ruotavano erano già un pochino dubbi, nel senso che c'erano delle donne... un pochino, come dire, molto attempate, con delle labbra che andavano un po' di qua, un po' di là, cioè non erano... Vabbè, le ragazzine mica vanno a farsi trattamenti. Esatto, però comunque, diciamo, tutte un po' una in questa... cioè che chiedevano un po', come dire, dottore mi guardi, cioè lei mi faccia, come dire, mi faccia il miracolo, no? Questo atteggiamento un pochino... Sembrava, scusami, la bottega di un restauratore più che un centro estetico. Ma no, secondo me più come proprio un Sai Baba, cioè loro si aspettavano un miracolo. Tant'è vero che se ne è uscito dicendomi, guardi, io ho una camera organica, capisce, c'è una cosa incredibile, signora, cioè ma se lei mi entra qua dentro... Lei mi entra qua dentro, lei mi esce nuova, capito? La camera organica. Sì, una camera organica. Io sono entrata in questa camera organica, in cosa consiste in buona sostanza? In due vasche da bagno, una, no? Che dove c'è della sabbia tipo del ghiaccio, sembra sabbietta, no? E l'altra, diciamo, una vasca che non cioè sembra una vasca, diciamo, piccola vasca idromassaggio, dove però esce dell'acqua, e la terza un'altra vasca con dell'altra sabbietta. E lui mi ha spiegato, fa, guardi, se lei entra qua dentro, signora, cioè nella prima vasca, ma qua si purifica di tutto, capito? Cioè qua il malocchio se ne scompare, cioè io le giuro, ma qui entra la gente con dei tumori, ma qui le porta via le metastasi, cioè le pulisce tutto. Ma cioè non è possibile, cioè non era un trattamento estetico, era una no. sorta come dei film di fantascienza che bravo, torni bravo. Come nuovo. Bravissimo, è tutto questo, cioè io devo tornare in questo posto. Ma cioè ti ha detto gente con le metastasi qui è guarita? Sì, no signora, ma qua mi è entrato un amico, questo era un uomo distrutto, cioè non aveva più erezione, cioè mi è uscito, ma non gli basta più la moglie, ma ne aveva per me 3-4. Beh, l'hai fatto il passaggio? Io l'ho fatto, sì sì. E che è successo? Andata. Hai avuto un'erezione anche te? Cosa è successo? Allora, io sono andata ed è stato, perché era spettacolare, cioè non potevo non andare. Allora, io mi sono quasi addormentata, prima diciamo sdraiata, sdraiatura, addormentata. T'hanno sabbiato, diciamo, il primo giro? No, ti sdrai su questo letto di cristalli, no? Questo che lui sostiene, guarda signora, ma questo non è sabbia. Sono cristalli che ho comprato, arrivano dall'Himalaya, ma costano 2 milioni di euro, capito? Beh, il sale dell'Himalaya lo trovi anche sì. Dappertutto, nelle bancarelle. Sì, questa. Vorrei che ti sdrai, poi vai a farti questa... Io ne ho approfittato così mi sono lavata bene, cioè quella mattina lì non avevo fatto lo shampoo, ho fatto che lavare... Si lavate i capelli, sciacquata sì, tutto. Sì, mi sono fatta tu. Poi la seconda sdraiatura, mi ho approfittato così ho dormito un'altra mezz'ora, perché tutto dura 2 ore, cioè non è una cosa così, diciamo, morbi e fuggi. Completamente senza... nuda dentro queste vasche o vestita? No, nuda, no, rigorosamente. E lui stava lì a guardare oppure... No, lui veniva, sì, veniva, mi raccontava pure... Ti parla mentre tu stai sotto il trattamento? Sì, sì, signora, cioè, mi è entrato un uomo con tutti i capelli bianchi, è uscito, ma neri, signora, ma stai scherzando? Vabbè, non può dire queste cazzate, dai. Giuro, io infatti morivo da ridere. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Allora, praticamente, perché ogni tanto me la rido ancora? Io devo andare. Ho portato la mia amica recentemente, no? Perché ho detto, devo farti conoscere questo posto. C'è gente borderline, sia da parte degli utenti, da parte di questi che esercitano. Cioè, a me piacciono comunque i freak, i personaggi comunque, come dire... Beh, freak, più che freak, surreali. Paraculi, perché alla fine questo si farà pagare per questa scempiaggine, no? Sì, però è talmente tutto, come dire, folle, che a me diverte. Morale che ho portato questa mia amica... E lui l'ha vista e fa, no, ma si rende conto, ma signora, ma qua abbiamo fatto il miracolo, ma venga, ma si guardi, ma guardi che roba, che bellezza, che glamour, ma qui veramente, ma qui abbiamo fatto una cosa incredibile. E invece era sempre la stessa. Io sinceramente non l'ho mai vista. Praticamente lui l'aveva presa per una paziente, cioè gli aveva praticamente, no? E quindi insomma uno spettacolo. Ah, lui pensava che aveva passato nella camera organica, invece niente, non c'era mai entrato. No, era la prima volta che entrava, quindi ha iniziato, ma proprio con un climax ascendente, a guardarla come... Ma lui come si veste? Si veste da guru, da santone o normalmente? No, come un medico. Ah, col camice bianco. Medico. Sì, camice bianco aperto. Poi gira sempre un cane, no, nello studio, un cane che dice, ma signora, questo cane, capisci, ma questo cane è una razza che... Al massimo vive 6 anni, questo ne ha 35, signora. Cioè, ah, perché l'ha passato anche il cane nella camera organica? Ma questo organica. Mi dorme sui cristalli, ma guardi. E allora solleva. Quindi scusa, sui cristalli dove sei andata tenuta ci dorme il cane la notte? Allora, praticamente lui ha una cuccia, questo cane c'ha una cuccia, mi ha fatto vedere, tirando sul cuscino, e ci sono, c'è la stessa sabbietta, capisci? Beh, quella è quella che usano per i gatti per fargli fare i bisogni, esatto, però è una cosa fantastica, cioè io non posso non andare, cioè mi rigenero, perché io quando ripenso a queste cose, io rido per 5-10 minuti da sola. Ma ti ricordi quanto costava il trattamento rigenerante, solo per capire? Ma penso sui 200 euro. Beh, insomma, chiamalo scemo, due vasche di sabbia e una vasca d'acqua, 200 no, euro male. Ti ci mette dentro, non è, cioè, sì, non è niente male, è un'azienda fantastica, costi sì, zero, ricavi totali. Sì, ricavi totali, però è anche vero che insomma a me ha divertito tantissimo. Io quando vado in questo posto è talmente tutto una follia, è tutto un cialtrume di storie, insomma. Ti piace affondare nella cialtronaggine altrui? Sì, assolutamente. Ma bene, poi anche vedere queste donne, no? C'è tutte tumefate, tutte insomma avvizzite, eccetera, che sono lì con gli occhi fiduciosi, no? Cioè, insomma, qualcuno che le salvi dalla putrefazione, certo. Sì, esatto, sì, è divertentissimo. Fra praticamente questo è un estetista di cadaveri e nulla più. E sei capitata casualmente in una sorta di ma adesso non posso più ricettacolo farne a meno. Per mummie umane. No, esatto, ma non posso più fare a meno di andare in questo posto. Beh, però vedi, allora vedi, un suo ascendente l'ha avuto. In realtà sei uscita spiritualmente migliorata e corroborata, quindi in effetti il sale dell'Himalaya e la lettiera del cagnolino a qualcosa ha fatto, è servito. Assolutamente. Vabbè, assolutamente. Divertiti, rigenerati e fai buon viaggio. Ciao. Summer days are filled with rain and no clouds just won't stop crying. This is when love goes away. Il treno va. Nulla come il viaggiare in treno permette riaffiorare dei ricordi lontani. Probabilmente c'è qualcosa di ipnotico nel rumore, nello sferragliare, nella ritualità del viaggio e anche le cose che probabilmente qualcuno ha seppellito nei meandri più nascosti della propria memoria fisica riaffiorano, anche quelle che non dovrebbero mai riaffiorare. Quando persi la mia verginità era luglio. Tornando a casa sentivo quel buon odore di paglia marcita che sale dopo un temporale estivo dai campi di recente mietuti. Per il mondo ancora agreste della mia provincia, nessuna stagione come l'estate incoraggiava le consumazioni amorose, estemporanee o clandestine. Una volta passata la paura, per me l'escalation fu rapidissima. Arrivai all'atto completo entro l'estate, ma con una tipa più grande di me, che guidava e mi portava con la 128 del padre tra le pinetine sulle colline del lago Trasimeno. Avvenne un pomeriggio afoso ma incombente pioggia. Lei stava appoggiata a un greppo con le gambe alte. Ricordo il profumo di muschio, di ginepro, di resina e di quello che emanava dal punto in cui stavamo attaccati. Finsi che per me fosse routine, lei in compenso finse di essere illibata. Noi maschi siamo continuamente sotto accusa, da generazioni lo siamo, anche quelli di noi più illuminati, più gentili, più graziosi, più aperti, più sensibili a quello che è il senso profondo della passione e dell'amore, perché in realtà, per luogo comune, siamo attratti soltanto dall'amore fisico, conosciamo soltanto questo sorta di animalesco bisogno, il resto è tutta sovrastruttura. E quindi mi sono, quasi fosse una sorta di rituale di espiazione, apprestato ad ascoltare l'audiolettera che mi ha mandato Livia. Livia mi ha descritto quella che è una storia d'amore dal punto di vista di una donna, squisitamente femminile, incomprensibile totalmente per noi maschi arretrati. Mi chiamo Livia, ho 37 anni e sto vivendo il sogno di ogni donna, credo. Perché mi sono fidanzata finalmente un anno fa con l'amore della mia vita.

Dai dai, batti batti, in 19 anni Livia ce l'ha fatta. L'ha preso, l'ha calappiato, l'ha fatto suo. Quello che sembrava un sogno improbabile, alla fine, preso per sfinimento, ha ceduto. E adesso sono una coppia felice. Si scambiano i loro calzini buttati per terra, si scambiano i loro gesti d'amore, si scambiano i loro momenti di vita felice, l'uno dopo l'altro. Lei vittoriosa, lui vinto, probabilmente questa è la maniera più probabile perché una donna si senta appagata. Un uomo che ha sempre amato nella sua fantasia sin da bambina, adesso è l'uomo che l'amerà per tutta la vita, finché morte non li separi. Quest'anno d'amore, come dice la canzone, è stato bellissimo e per me è nuovo perché io mi ero sempre innamorata dei miei migliori amici, quindi persone che già conoscevo benissimo. Invece questa volta mi sono messa con una persona che avevo solo sognato, come avveniva, non so, nei romanzi di Jane Austen. Diciamo, ho retto la relazione, ha retto all'impatto dei calzini, lui lascia i calzini per casa, però li lascio anch'io per casa, quindi sono più disordinata di lui e questa cosa credo che ci abbia molto agevolato perché io non mi arrabbio quando vedo le sue cose in giro. E sono contenta, che devo dire. Però è una cosa bella perché io mi sono sempre considerata sfortunata in amore, invece anche a 50 anni ci si può innamorare, perché bisogna per forza farlo da giovane. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Vabbè, ho deciso che per tutto il corso di questo viaggio ho parlato di corpo, ho parlato di passione, ho parlato d'amore e adesso finisco di rovinarmi facendo raccontare la storia di Mirella. Mirella anche lei è una storia d'amore esemplare, è in realtà quella che può maggiormente mettere alla gogna, alla berlina, portare sul palco del giudizio l'uomo crudele, l'uomo approfittatore, l'uomo infame, l'uomo che non capisce che in realtà la donna è soltanto bisognosa di essere amata e di amare chi ella ama. Caro Gianluca, mi sono decisa a scrivere a lei perché ho bisogno di un punto di vista maschile sulla mia vicenda. Le amiche a cui ho avuto il coraggio di raccontare questa storia mi pare che abbiano capito ancora meno di me. Credo che lei, e anzi temo che lei, avrà sicuramente qualcosa da dirmi. Dunque cercherò di non farla troppo complicata, visto che a voi uomini le cose complicate non piacciono. Ho 30 anni, sono una mamma di due bimbe che cresco praticamente da sola perché con mio marito siamo separati da 4 anni. Con lui ci conosciamo praticamente da 20 anni, l'ho incontrato sui banchi di scuola, è stato il classico amore liceale che però è continuato, non ci siamo più lasciati. Una storia che quando la raccontavamo ad amici e conoscenti tutti a dirci «Ma che bello, come avete fatto?» e noi sempre a rispondere che non ci sentivamo poi così speciali, semplicemente era andata così. Nessuno dei due aveva chissà quali ideali sul matrimonio. Poi, 4 anni fa, dopo la nascita della seconda figlia, arrivano i primi problemi, incomprensioni, litigi. Ha presente quel nervosismo che serpeggia quando ognuno vede nell'altro un limite ai propri reali desideri? Poiché lo conoscevo molto bene e non potevo fare finta di non vedere o capire, ho fatto le mie verifiche e ovviamente ho scoperto piccoli tradimenti. Probabilmente niente di veramente serio, ma inutile, lo devo ammettere. Per quanto razionalmente era per me quasi impossibile sperare che dopo 10 anni il mio uomo non avesse desiderio di altre donne, la sensazione di sentirmi presa in giro da chi mi dichiarava amore vero e pieno, unita alla rabbia per la delusione, hanno prevalso sulla mia volontà di rimanere insieme a lui. Ci ho anche provato a perdonarlo, ma non ci sono riuscita. Non mi fidavo più di lui. E così il rapporto si è sfilacciato via via sempre più, al punto da decidere di venire separati. Lui non ha mai voluto il divorzio. Purtroppo a me questa fine ingloriosa, banale, come tutte le storie di tradimenti, ha fatto tanto soffrire. E forse è per questo che ho cominciato a riversare nel cibo la mia frustrazione. Sono arrivata, ahimè, a pesare 100 kg. E se guardo le foto del liceo, le foto di qualche estate fa, mi viene da piangere per la rabbia di non essere più la bella ragazza che si sapeva tenere vicino il suo uomo anche con la grazia del proprio corpo. A luglio però succede qualcosa di inaspettato. Lui inizia a telefonarmi, non solo per risentire le bambine, vuole sapere come sto. Mi chiede cosa faccio, se vedo qualcuno, e non so nemmeno io come ricominciamo a vederci. Un uomo che torna da una moglie abbandonata è un bel problema. Torna per scorno, perché l'alternativa che l'aveva fatto allontanare da quella moglie probabilmente lo ha lasciato in mezzo a una strada, e quindi ritrova come pollicino la strada di casa. E la donna è sempre accogliente, la donna è sempre pronta a perdonare, la donna è sempre pronta a scendere a un compromesso, pur di riacchiappare quell'uomo che le era fuggito. Ma in questo caso a Mirella costerà molto caro. Lui mi aspetta a casa, mi prepara la cena, mi chiama per chiedermi cosa voglio mangiare, facciamo l'amore. E io quest'estate ho perso 6 kg senza fare chissà che attenzione alla dieta. Gli propongo di tornare insieme, di dirlo alle bambine. Lui mi giura che vuole ritornare in famiglia e chiedere ufficialmente scusa anche a mio padre. Però non si decide mai, non è mai il momento. Finché un giorno sparisce per 3 giorni. Mi manda solo un SMS per farmi sapere che sta bene, ma niente di più. Al 4° giorno mi viene a trovare e mi confessa di aver incontrato un'altra, una sua cliente, e di aver perso la testa. E di aver capito che non può tornare con me, anche perché, testuali parole, io per fare l'amore con te mi devo concentrare. Concentrare? Ma che cosa vuol dire? Sono rimasta senza parole e me ne sono andata. Ormai la considero una cosa chiusa, ovviamente, ma la curiosità mi è rimasta. Mi dica spietatamente, da maschio, perché tornare da una donna se non la si ama più? E che cosa vuol dire che un uomo per fare l'amore con la propria donna si deve concentrare? Per voi fare l'amore è come fare il sollevamento pesi? Risponderò nella più sincera delle maniere a questa donna che ha completamente trasformato il suo corpo, visto che questo è il tema della riflessione di questo mio viaggio in treno di oggi. Il suo corpo di 100 kg comunque viene ripreso in carico dal marito, e ogni volta che si congiunge con lei però lo vede un po' meditabondo, e alla fine lui si giustifica, e giustifica anche il fatto che poi è riscappato da un'altra donna. Le dice: mi devo concentrare. E lei questo mi devo concentrare non riesce a decifrarlo, o non vuole decifrarlo. Parla di sollevamento pesi, ma non è che deve prendere fiato, non è che deve trovare il momento giusto per sollevarla e per essere insieme nell'alto del cielo di un rapporto che li astrae dalla nuda carne e li porta verso un intangibile sogno d'amore che in fondo è sempre rimasto così. No, deve concentrarsi, perché deve pensare a un'altra donna, se no non ce la fa, per quel dovere coniugale e per quel pesante rapporto che deve comunque suggellare il suo ritorno a casa. Probabilmente ha bisogno di pensare a qualcos'altro. Non so se pensi all'ultimo suo passaggio su YouPorn, o pensi alla donna che ha avuto poco prima, o alla donna che avrà poco dopo, ma probabilmente qualcosa pensa. Pensa a un fantasma che non è certo la moglie che è accanto in quel momento, nella sua massa smisurata di donna che si è rovinata e ha distrutto il suo corpo, proprio per dimostrare all'uomo che l'ha abbandonato che così non si fa.